Mi ha abbastanza intrigato quel parallelo di Guardiola della settimana scorsa che l'ha chiamato il Michael Jordan del calcio. Ma è un paragone impegnativo, è un paragone impegnativo, però d'altronde Messi ci è abituato, visto che lo paragonano a Maradona. È un paragone che da un lato ci fa capire come la grandezza di questo ragazzo ci costringa noi, e in questo caso Guardiola, continuamente ad alzare l'asticella, perché bisogna sempre trovare qualcosa di nuovo. Ormai l'abbiamo già detto che è il più forte di tutti, fa un sacco di gol e prenderà tanti palloni d'oro. Da non avere più spazio all'interno della propria bacheca, questo mi sembra abbastanza sicuro. Il paragone con Michael Jordan è ardito per due o tre motivi. Beh, intanto perché parliamo di un giocatore che gioca con i piedi e con la testa e di un altro che giocava con le mani. Jordan iniziò a vincere nell'NBA a 28 anni, mentre Messi ha vinto molto molto prima. Va anche detto che Jordan aveva due dimensioni di gioco, cioè quella dell'attacco e quella della difesa. Jordan era anche un fantastico difensore, al punto da aver vinto anche trofei come miglior difensore dell'anno. Messi, diciamo che può concentrarsi di più su un lavoro offensivo e Offensivo, meno. anche se lo so che non è la stessa cosa, intendiamoci, ma ogni tanto di Messi colpisce il puntiglio, la caparbietà vera, non di facciata, con cui rincorre l'avversario e pressa comunque alto non appena il Barça, quelle rare volte che il Barça perde il pallone. No, ma infatti Messi non è uno che si riposa mentre gli altri difendono, però è diverso rispetto Ma a un'azione di basket dove la questo sì. difesa è Sono obbligatoria. diverse le discipline, Sono completamente diverse. Io trovo che Messi dia emozioni come le dava Jordan. Sono emozioni chiaramente diverse, ma sono emozioni. E secondo me la cosa interessante in tutto questo discorso è che sia Leo Messi che Michael Jordan sono riusciti ad andare abbastanza al di sopra delle barriere del tifo. Penso che di fronte a un'azione di Messi o davanti a un'azione di Michael Jordan anche il tifoso avversario È vero. la accetti con una serenità maggiore rispetto che per giocate di altri.